8. Ascolta e controlla. 1. Scrivigli una lettera. Non scrivetegli una email. Scriviamogli un SMS. 2. Rispondile appena puoi. Non rispondetele in ritardo. Rispondiamole domani. 3. Portale questo regalo. Non portatele niente. Portiamole questo libro. 4. Telefonagli oggi. Telefonategli domani. Telefoniamole stasera. 5. Spiegagli la tua situazione. Spiegatele tutto. Non spieghiamole niente. 6. Ripetile la spiegazione. Non ripetetele niente. Non ripetiamole nulla.